Cappa, ma... ma vabbè, ma ci credo, ma stavi ascoltando Caccia, eh? Cappa, Cappa, guarda che Caccia è finito, sta dicendo del puntino rosso, ormai ci tocca... Cappa! Credo asilo. Quando ero piccolo io si cominciava la scuola il 1° di ottobre . E il 4 ottobre era già festa perché era il giorno di San Francesco d'Assisi. Inspiegabilmente, non so perché, il 4 ottobre negli anni 70 si rimaneva a casa. Quindi oggi sarebbe stato il primo giorno di festa. Mm. Bellissimo, già cominciare così, 3 giorni dopo. Mm. Cosa c'è? Te lo dico, guarda, il 4 ottobre era la festa perché San Francesco d'Assisi, se non lo sai, è il patrono d'Italia. Ah, proprio il patrono... Di tutta Italia, fino a Lampedusa e Pantelleria. Ecco, vedi, lui e Santa Caterina da Siena sono i due patroni, un maschietto e una femminuccio, capito? Bene, adesso che lo so, sono contento, ecco. Quindi possiamo cominciare. Cosa prima però ascolta questo messaggio che è arrivato ieri in segreteria, senti qua. Capito, sono Caterina da Siena, Francesco. Risponde la segreteria telefonica dell'asilo Stoppani. L'asilo è chiuso fino a domani. Fa anche rima. Lasciate un messaggio dopo il beep. Pronto, signor, pronto, è Tamanolito. Pronto, signor, no, il signor Assange tiene in diga schione bagna cauda, aita, aitatemi, signor, vi prego, pronto, pronto, rispondite. Ma chi era? Cosa diceva Assange, bagna cauda? È una storia lunga. E come la sai tu questa storia lunga? Io non ne so se niente. Se tu non ti assentassi, lasciassi qua il telefono incustodito. È Manolito, Manolito che chi? Mi chiama. Manolito, Manolito, l'attendente di Assange all'ambasciata ecuadoregna o ecuadoriana a Londra. Ma, allora, ma scusa, ma perché ti chiama per dirti che Assange ha fatto indigestione di bagna cauda? Te l'ho detto, una storia lunga, no? Cioè, ma vuole sbolognarci Assange? È chiaro, non lo sopporta più, tutto il giorno lì sul divano. Però con internet. Tu continui a dire che non, che non c'è posto, che non c'è posto. Però un posto si troverebbe anche, dai. Solo che poi diventa una menata. Pensa un po' ai genitori dei bambini dell'asilo come la prenderebbero bene. Col rischio che la CIA arrivi a fare un raid, capito? Una cosa? Un raid. Si dice raid. Sì, sì. Raid vuol dire cavalcata, si scrive ride. Ride. Sì, ride. Ride, ride bene, chi ride ultimo. E vabbè, l'ultimo chiudo la porta. Le ultime allarmanti notizie sull'economia italiana dicono che siamo tornati a 20 anni fa, al 1992, altro che crescita. 20 anni fa. Io ad esempio 20 anni fa ero al primo mese di militare, settembre, ottobre. Quindi dovresti tornare in caserma. Se è vero che siamo tornati a 20 anni fa, sì, e anche in fretta, se no scatta la denuncia per diserzione. Soldato Drago! Lei ha disertato! No, comandante Cappa, erano passati 20 anni e allora... Silenzio! Qui parlo solo io! Lei ha disertato, sono 20 anni che l'aspettiamo in caserma! La maggioranza degli ufficiali d'epoca ormai è andata in pensione, tenente Drago! Cioè, soldato Drago! E lei no, comandante Cappa? No. Purtroppo sono un esodato! Un... Sì, comandante K. Ma allora? Ma allora? Ma tenente Drago! Ma... Se ci pensi però sembra proprio il 1992, no? Magari, che allora c'era Craxi, adesso c'è Fiorito, per esempio. Che 20 anni fa tirava le monetine a Craxi, tra l'altro, era tra quelli lì. Adesso sarebbe bello vedere i figli di Craxi tirare le ostriche a Fiorito. Che guscio e tutto, però. Eh beh, certo, se no se non gli fai male, no? Se gli lanci il mollusco, quello lì, Fiorito è capace di prenderlo al volo. Ecco, lo sapevo, quando Drago non c'è, suona il telefono, io devo rispondere e so già chi è. Pronto? Ed è bien, signor, pronto, a chi habla Manolito? Sì, lo sapevo, lo sapevo. E per favore, signore, il signor Assange è divenido todo blé. Il signor Assange è divenido todo blé. Ma che lingua parli, Manolito? Cosa dici? Julian Assange è diventato blu. Todo blé. Blu. Sì, è esatto. Così, signor. Ma perché? Per via della bagna cauda? Non sa, il mio cugino gastroenterologo non comprende lo che si passa. Il signor Assange ha svenito todo blé. E ora ci cagamo su adesso, perché se il signor Assange muore, e scioppa un gran casino, Direi di sì. E scioppa proprio un gran casino. Così, ma fategli una lavanda gastrica. Lavanda gastrica, è stata un'idea. Appena un attimito. No, Manolito, no. Lavanda gastrica, non lambada. Guarda bene, signora Sanche, la mia. In che tonalità la fai, Manolito? Io te devo mettere. Manolito? La tonalità? Vabbè, metto giù. Uè, Gildo. Quest'anno il Milan va male. Il Milan va male. Va male. Per me è tutta colpa degli allenatori. Gli allenatori? Sì, perché tu mi chiederai, allenatori? Ma non ce n'è uno solo? Allenatori? Non ce n'è uno solo? Sì, ho capito, questo devo, cioè, te l'ho detto io, però... E quindi allenatore sì, ce n'è solo uno. Che si chiama Allegri, no? Allegria! Ma è buongiorno! Ma è buongiorno. Poi però c'è l'allenatore dei giovani, no? Degli allievi, che sono giovanissimi, e che si chiama Inzaghi, no? Pippo Inzaghi. Inzaghi, Questi due qui si sono messi a litigare, no? Non roba da bambini, come i bambini dell'asilo. Inzaghi! Sì, perché Allegri, Inzaghi gli fa: uè, tu mi vuoi fare le scarpe, Che tu, capito, mi fare le scarpe vuol dire, tu lo sai cosa vuol dire. E Inzaghi gli ha detto: uè, allora tu sei un pezzo di, cioè, insomma, è successo un casino, no? Inzaghi. E basta con Inzaghi! Non c'era solo Inzaghi, c'era anche Allegri. Allegri e Inzaghi, no? Allegria! Sì, comunque siamo... Allora, qui non c'è niente da ridere, altro che allegria. Siamo messi male, Gildo. Allora, giocatori, già che non sono granché e più sono fuori forma. Presidente, distratto. Distratto e col braccino. Poi allenatori bambini, quindi, cioè... Ma mi sembra bambinata. Due bambini. Se è andata come ho letto, due bambini. E questo è Nesta, Cioè, il mitico, cioè, Alessandro Nesta, Cioè, te lo ricordi? Ernesto! Ma qua è Ernesto! Nesta, Alessandro Nesta! Vabbè, comunque quest'anno speriamo di salvarci, Sì, speriamo di non andare in Serie B! Cioè, tu sai cos'è la Serie B? Cioè, non sai cos'è la Serie B? Ma io a volte mi chiedo perché mi ostino ancora a parlare con te quando potrei benissimo parlare da solo. Ma tu parli da solo? No, purtroppo parlo con te. Ma io non esisto. Shhh, non dirò a nessuno, no? Mancano 78 giorni alla fine del mondo. Quanti giorni mancano alla fine del mondo? 78. Vabbè, 78, cioè 78, perché si dice 60, 60 più 18, 78. Bene, bambini, l'ascolto, voi che non studiate più il francese. Francese perché? Importante, Drago. Importante, sì, la lingua diplomatica. Non la studia più nessuno, però è la lingua diplomatica. Cioè, se tu pensi. Nelle ambasciate in Africa, esatto, si parla francese. Quando c'è quelle pale che girano sul soffitto, tutti sì. Vestiti di bianco, se c'è uno che viene dall'Australia, l'altro che viene, che ne so, dall'India, che lingua parlano? Mica inglese, anche se sono tutti due anglofoni, parlano francese. Perché la lingua diplomatica? Comment ça va? E tutti questi il parlo this way. Perché lui ha detto che vorrei avere bagna caut. Brrrr.